festeggiamo la nostra madre, Santa Maria Assunta in cielo. E se ci possiamo chiedere questa nostra orazione, il motivo, anche se lo sappiamo bene, perché meditiamo spesso questo mistero conclusivo, no, della vita di Maria, ci possiamo chiedere il motivo di questa grande devozione anche popolare, no? Della festa dell'Assunzione, com'è possibile che sia così, così felice il popolo di Dio quando festeggia in fondo la dipartita, no? Di Maria, Maria che prima sta con noi, con i discepoli, con Giovanni, con gli altri, e quindi in qualche modo anche consola la Chiesa nascente dell'essere un po' orfana della presenza fisica di Gesù, e racconta loro tanti aspetti anche della vita nascosta del Signore insieme con lei. E svela per esempio l'inizio di tutto, no? L'annunciazione dell'angelo ai discepoli che forse le chiedevano, no? Qualcosa di come era iniziata tutta questa storia dell'incarnazione del Figlio di Dio, questa storia della salvezza che giunge al suo apice con l'incarnazione del Figlio di Dio e poi con la sua passione, morte, risurrezione. Quindi Maria che gli lascia, no? Ci abbiamo tutti nella mente, nell'immaginazione, insomma, nella memoria visiva, quelle immagini, quei quadri dell'Assunzione in cui i discepoli sono lì, la Madonna della Cintura, no? I discepoli sono lì attorno a questo sepolcro vuoto. Spesso la dipingono così, e Maria che sale al cielo, quindi ecco, uno di loro rimane con questa cintura in mano, no, della Madonna. Eppure così come analogamente come accadde con l'ascensione del Signore, che poi i discepoli tornano con grande gioia a Gerusalemme, così ecco, narra San Luca, e così la gioia del popolo fedele quando in un giorno come oggi festeggia Maria che è salita in cielo. Io penso che i motivi siano tanti, no? Forse il primo motivo che ci può venire in mente è che i cristiani intuiscono o sanno, vedono, insomma, che Maria è stata preservata dalla corruzione della morte, e non ha avuto bisogno del sepolcro. In questo tu, Gesù, sei stato ancora più generoso con lei, no? Più affettuoso, no? Perché tu, Gesù, hai voluto percorrere il nostro stesso cammino dell'uomo sulla terra dopo il peccato originale, che è entrata la morte nel mondo, quindi hai voluto passare attraverso la morte, peraltro anche così cruenta, no? Così drammatica. E poi il sepolcro, no? Hai evitato per poco la fossa comune, no? Perché Giuseppe d'Arimatea ha chiesto il tuo corpo, a Pilato l'ha ottenuto. E quindi hai vissuto l'esperienza del sepolcro come Lazzaro, e come ciascuno di noi. Poi, evidentemente, hai vinto la morte, hai sbaragliato, ecco, questa, hai fatto esplodere quella pietra che lo chiudeva. Ma per Maria tua madre, nella quale tu sei stato concepito per opera dello Spirito Santo, quindi che è stata. Il cui grembo è stata la prima tua casa, per lei non hai voluto, ecco, lei che è grembo, lei stessa non hai voluto per lei il grembo della terra, no? Che la custodisse anche solo per un po' di tempo, non c'era, non hai voluto, no? Non c'era bisogno, forse è passata dalla morte. Forse neanche, sappiamo che la Chiesa non ha definito se è morta, forse sì, ma forse come quella fanciulla del Vangelo, quella figlia di Gairo, che quando tu dici, e poi ti prendono in giro, la fanciulla non è morta ma dorme, forse tu in quel momento già sapevi cosa avresti fatto con tua madre, hai fatto una cosa simile a quella che hai fatto con quella bambina, con quella dodicenne. Ti sei avvicinato a Maria, che probabilmente si era così assopita nel sonno della morte, vicino ai discepoli, che l'assistevano. E l'hai presa per mano come quella fanciulla. E ecco, talita cum, no? Fanciulla, adesso ti dico, sorgi, risorgi, alzati. E con Maria hai fatto qualcosa di più, te la sei portata in cielo. Quindi c'è, cioè, con te nel seno della Trinità, con il suo corpo e con la sua anima. Ecco. Noi gioiamo perché Maria è stata preservata, così come nel suo concepimento dal peccato originale, così è stata preservata dalla conseguenza del peccato originale, dalla conseguenza che è la morte e la sepoltura e la corruzione del corpo. Tu Gesù l'hai portata subito con te, per questo il popolo cristiano gioisce. E gioisce perché intuisce che in quel modo, certo, è vero che tu Maria sei stata affidata a ciascuno di noi nel discepolo amato. Sotto la croce, no? Donna, ecco tuo figlio, figlio, ecco tua madre. Quindi noi dopo, vediamo in quell'affidamento a Giovanni, al discepolo amato, l'affidamento a ciascuno di noi, che ciascuno di noi è figlio di lei e lei è madre di ciascuno. Però questo è stato possibile, è possibile a livello universale, è possibile che Maria sia madre di tutti nel momento dell'Assunzione, quando questo suo, il grembo che ha portato Gesù, il seno che lo ha allattato, vi ricordate quella lode piena di ammirazione, forse anche un po' di buona invidia, no? Quella donna in mezzo alla folla che a un certo punto esclama, così colpita dalla forza delle parole di Gesù e dalla bellezza forse anche della sua umanità. beato il grembo che ti ha portato, beato il seno che ti ha nutrito, no? Quel grembo che ha custodito Gesù per 9 mesi, quel seno che lo ha allattato per parecchio tempo, forse nei primi anni della sua vita, entrando in cielo, entrando dentro alla Trinità, al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, quel grembo e quel seno diventano. Possono diventare il grembo nel quale tutti siamo contenuti, nel quale tutti siamo figli. E quel seno diventa quel luogo del nostro nutrimento, ecco, per ciascuno dei figli dell'umanità. Siccome Gesù aveva, ecco, come sappiamo, era disceso agli inferi, quindi nel grembo di Dio erano presenti, ecco, i personaggi del passato. Possiamo pensare anche che Maria, nell'entrare in Dio, abbia conosciuto Eva, la prima madre di tutti, no? La madre di tutti i viventi. E l'avrà salutata con grande affetto, ma in quella dimensione divina della sua nuova vita, lei diventa davvero la madre di tutti noi. Per cui il popolo credente intuisce che con l'assunzione in cielo di Maria veramente, veramente possiamo considerarci suoi figli ed esserlo davvero. Non abbiamo, mentre qui sulla terra, certo, noi intuiamo che ci sono dei limiti, no? Dei limiti fisici, dei limiti di spazio, di tempo. È vero che Maria in quegli anni, ci immaginiamo, i primi testi su di lei lo dicono, che si dedicava anche ad ascoltare i discepoli, a incoraggiarli, era veramente la loro forza, così come sicuramente lo è stato anche nella vita pubblica di Gesù, anche se i Vangeli ne parlano poco. Di lei era sempre presente, era sempre attenta, sempre vicina a ciascuno, soprattutto era vicina anche alle donne che seguivano Gesù, però aveva i nostri stessi limiti, aveva gli stessi limiti che Gesù ha voluto per sé, i limiti del tempo, i limiti dello spazio. Quindi se uno parlava con lei, dedicava lei a lui quel tempo e per un altro bisognava aspettare, come succede a noi. Invece, nel momento in cui Maria viene portata in cielo da Gesù e avviene in cielo di nuovo quell'abbraccio tra la madre e il figlio, che è l'abbraccio tra il nuovo Adamo e la nuova Eva. Vedete, così è come se Dio ci dicesse, Dio Padre e Dio Spirito Santo, guardando Dio Figlio diventato uomo, questo è l'uomo come lo voglio io, questa è la donna come la voglio io. Il nuovo Adamo e la nuova Eva, quindi l'abbraccio tra Gesù e Maria che avviene in cielo. In cielo, in un giorno come oggi, quando Maria fu assunta, sicuramente c'è stato il primo abbraccio, tutta la nostra umanità, quella dell'uomo e quella della donna, stanno in cielo, in Gesù e in Maria, in modo pieno, in modo bellissimo, in modo, diciamo così, senza macchia, senza nessun timore di peccato, senza. In qualche modo, e questo è un altro dei motivi di gioia del popolo credente, in un giorno come oggi, in qualche modo noi riscopriamo in Gesù e in Maria la bellezza di tutta la creazione, la santità di tutta la creazione. Pensate, tutto il corpo dell'uomo e tutto il corpo della donna sono in Gesù e in Maria assolutamente buoni, assolutamente belli, assolutamente puri. Questo ci dice Dio attraverso Gesù e attraverso Maria nel giorno dell'Assunzione. E il popolo credente è felice di questo. In qualche modo noi riceviamo di nuovo, e nel giorno dell'Assunzione, anche da parte di Maria, un grandissimo ottimismo, e recuperiamo l'ottimismo per la creazione. E ci sentiamo spinti ad amare il mondo appassionatamente, no? Come ci insegnava San José Maria. Tutto il mondo è buono e puro, è uscito bello, santo, dalle mani di Dio. È solo il peccato che lo rovina. E in Maria non c'è peccato, e in Gesù non c'è peccato. E noi ci sentiamo figli di Maria, quindi sappiamo di esserlo, quindi sappiamo che nel suo grembo e nel suo seno veniamo continuamente rigenerati. È come se tutta, sì, in Gesù Dio è entrato nel mondo, è venuto a farci visita, è venuto ad abitare in mezzo a noi, attraverso l'incarnazione di suo figlio nel seno di Maria. E con l'Assunzione avviene in qualche modo una realtà corrispondente e opposta, cioè tutta la nostra umanità, Maria è l'umanità, la donna che entra nel cuore della Trinità, nell'intimo della Trinità, e quindi tutta la nostra realtà, la realtà creata, la realtà di cui siamo fatti, sta nel seno di Dio. Quindi Maria unisce il cielo e la terra, no? La creatura con il creatore. Capiamo che Dio non ha voluto Maria solo per così, solo per nascere, diciamo così, solo per la vita terrena, no? Solo per quegli anni in cui sicuramente Maria l'ha accudito, l'ha riempito di affetto, l'ha custodito insieme con Giuseppe per tutti gli anni in cui Giuseppe è stato vivo, e poi lo ha seguito, lo ha consigliato, insomma ha fatto quello che una madre fa con un figlio lungo tutta la sua vita terrena. Non bastava Gesù che il compito di Maria, che la vocazione di Maria fosse solo per la sua missione terrena, no? Il tempo in cui poteva stare qui su questa terra, ma vuole che Maria continui la sua vocazione, anzi proprio la ampli, lungo tutta la storia dell'umanità e per sempre, e per sempre. Ecco che noi scopriamo, ecco, in quell'episodio che oggi ricordiamo anche in tutti i centri dell'opera, ricordiamo quella preghiera, la ripetiamo, la facciamo nostra, con cui il nostro padre San José Maria Loreto, il 15 agosto del 51, ha affidato se stesso e tutti noi e tutta l'opera al cuore dolcissimo di Maria. Noi scopriamo in quel gesto una realtà che poi tanti cristiani vivono in modi diversi, cioè questo. Come una risposta all'idea che Dio ha, cioè, al porgerci la madre come madre sua come madre nostra e come soluzione a tutti i nostri problemi, no? E come tu, Gesù, sei entrato in Maria per opera dello Spirito Santo, come tu, Gesù, ce la porgi come madre universale, no? Nel portarla accanto a te in cielo, così noi giustamente ci mettiamo dentro a questo cuore di Maria, che significa tutta la sua interiorità, tutti i suoi sentimenti, anche il suo corpo vestito di sole, quindi meravigliosamente bello, proprio così come è stato creato, no? Quando leggiamo nell'Apocalisse, si aprì il tempio di Dio che è nel cielo e apparve nel tempio l'arca della sua alleanza. Maria, che è la nuova arca dell'alleanza. Un segno grandioso apparve nel cielo, una donna vestita di sole con la luna sotto i suoi piedi e sul capo una corona di 12 stelle. In qualche modo mi richiama questa immagine dell'Apocalisse alla fine della Bibbia, quell'immagine della Genesi in cui Adamo ed Eva erano stati appena creati da Dio e dice il libro sacro, erano nudi e non ne provavano vergogna. La creazione è stata di nuovo rinnovata da Dio e noi quindi entriamo senza paura nel cuore di Maria, entriamo senza paura, possiamo dire così, nel suo grembo, no? E ci lasciamo allattare dal suo seno, no? Come in tanti quadri si vede, no? Il popolo cristiano ha guardato con affetto a questo mistero del latte materno di Maria, che nutre addirittura il figlio di Dio, perché ciascuno di noi si sente bisognoso di essere nutrito da lei nella vita cristiana e nella vita spirituale. Abbiamo bisogno di alimento, di forza, di coraggio, di tenerezza. E allora andiamo a cercarla lì, nel grembo di Maria, nel seno di Maria, e quel grembo e quel seno che hanno custodito e nutrito, protetto e nutrito, fatto crescere e nutrito il Figlio stesso di Dio. Adesso è per tutti noi. Quindi comprendiamo bene il nostro padre, Santa Maria, che quando non sapeva in quel momento di difficoltà a chi rivolgersi sulla terra, è andato dalla Madre del Cielo. È andato da lei, ha fatto visita a quel suo santuario, a quella sua casa. Allora ha detto: c'è un pezzo della sua casa. È come se avesse avuto bisogno di dire: vengo nella tua casa, mi metto accanto a Gesù bambino, anch'io come un bambino tra le tue braccia. Nella messa leggiamo dalla lettera di San Paolo: fratelli, Cristo è risorto dai morti, primizia di coloro che sono morti, perché se per mezzo di un uomo venne la morte, per mezzo di un uomo verrà anche la risurrezione dei morti. Come infatti in Adamo tutti muoiono, così in Cristo tutti riceveranno la vita. Allora, in effetti, il popolo cristiano intuisce che Maria è stata la prima ad avere il privilegio della risurrezione dai morti. E allora questo ci dà una speranza infinita, immensa. La speranza della nostra risurrezione dei morti. E lei ce l'assicura, no? Noi quando preghiamo nella Maria, prega per noi peccatori adesso e nell'ora della nostra morte, senz'altro le chiediamo un aiuto in quel momento importante, supremo, ma anche ci affidiamo a lei perché desideriamo stare con lei per sempre in cielo e speriamo nella risurrezione futura. E perché la nostra madre, perché una di noi, una creatura del genere umano, no? Una donna ha generato il creatore ed è stata da lui assunta in cielo con il corpo e con l'anima. Non ci sentiamo più soli su questa terra. Noi sappiamo che e crediamo, quindi con ferma fede, con ferma fiducia, che c'è nel grembo di Dio questo grembo di donna che ci accoglie. Quindi ci sentiamo chiamati da te, Madre nostra, da te Santa Maria, a fidarci a te con tutto il cuore, no? E totalmente, no? Come San Luigi Maria Grignion de Montfort, che scrisse quel libro sull'affidamento a Maria. E che Giovanni Paolo II sintetizzava percorrendo quel cammino totus tuus. Io sono totalmente tuo, io sono totalmente tuo, quindi possiamo ciascuno di noi come preferisce, nel modo in cui preferisce vivere questo affidamento totale, questa consacrazione di sé al cuore dolcissimo di Maria. Noi oggi la riviviamo anche in famiglia, anche collettivamente, anche ecco, come tutte le persone dell'opera e cooperatori amici fanno, ecco, se, in qualche modo partecipano di questo dire a Maria: siamo totalmente tuoi. Ci affidiamo a te tutta la nostra vita, tutto quello che facciamo, tutti i nostri desideri, tutta la nostra esistenza. Ci consacriamo a te perché la nostra vita possa essere quello che Dio vuole, quello che il Signore cerca per noi. Che mi viene in mente quell'immagine che Gesù dice in modo un po' negativo, cioè quando vi ricordate quando va da quel fico pieno di foglie, però senza frutti, e lo urta, no? Questa visibilità dell'albero che però non dà frutti. Invece, ma a noi va bene anche apparire, che so, senza foglie, con i rami un po'. Insomma, non belli, non è quello che interessa di una bellezza, di compiere tutto che so, secondo quello che umanamente viene considerato valido, bello, oppure secondo determinate regole o impostazioni. Quello che conta è il frutto, è il frutto dell'amore, è il frutto dell'amore. Quindi amatevi come io vi ho amati, date la vita, no? Come io l'ho data. Quindi noi, donandoci a Maria, vogliamo dire: ecco, vogliamo essere tuoi figli, quindi imitarti in questo modo, cioè donare anche noi la vita a Gesù, donare noi la vita a Dio, perché attraverso questa donazione d'amore possa essere feconda la nostra esistenza, feconda di frutti, ricolmi di amore, che la gente attraverso l'amore di Dio che noi vogliamo vivere in pienezza si senta profondamente amata da noi e quindi possa cogliere conoscere Dio e seguirlo con tutta la sua con tutte le sue, con tutte, ciascuno con tutte le sue forze, con tutta, ecco, insomma, con tutto il cuore, con tutta la mente, anche con tutte le debolezze, ma sì, certo, il Signore è venuto proprio per. È Lui il Salvatore, non siamo noi i nostri, no? I salvatori di noi stessi. Noi ci affidiamo totalmente come figli, come bambini piccoli, totus tuus ego sum, siamo totalmente tuoi, consacrati al tuo cuore dolcissimo per portare sulla terra visibile e tangibile l'amore di Dio.